super speaker. Sì, è avvantaggiata, no, quindi lei. Sì, sì, sì, ha una notevole esperienza. C'era una radio di questo, non ricordo il nome, di fianco a casa mia, e un giorno mi invitarono, un pomeriggio, mi invitarono a scegliere dei pezzi per i bambini. Ma che bello! Si parla degli anni 70 e si parla anche di una terra soleggiata e... Esatto, io vengo dalla Sardegna, dalla provincia di Oristano, e questa radio era una radio di Oristano. Ma che bello, salutiamo i tuoi ex compagni di radio allora, direi. Magari in questo momento ci stanno ascoltando da qualche parte nel mondo. Chissà. In Italia. O in coxospaziale.blogspot.com. Sì. Oppure dal vivo su radiocittafugico.it. Esatto. Perché incredibilmente lo streaming funziona. E quindi sei arrivata a Bologna da tantissimi anni ormai. Sì, io vivo a Bologna da tantissimi anni, dalla fine degli anni Ottanta, ho fatto l'università a Bologna, ho vissuto qui molto bene, ho capito subito che sarei rimasta andata, qui. No? No, sono rimasta, ho sposato un bolognese. Ah, questo, questo ci accomuna tutti in questo studio, tutti e quattro. Queste scelte terribili, sposarsi un bolognese. Alla fine rimaniamo qua. Cioè, ciao. Sposato un bolognese significa prendersi la cittadinanza. Sì, no, anche perché i bolognesi ho preso non sono la cittadinanza. Molto movibili. Esatto, esatto. Sono un po' stabili tendenzialmente. Ci sta, dai, alla fine ai colli, sei strategicamente connesso a tutta l'Italia e queste sono le prime due, diciamo, motivazioni che vincono su tutto. Poi è Lambrusco, quindi ecco, esatto, va bene, esatto. E questa vince ancora di esatto. più sulle altre. Questa suggella completamente, sì. Mi fa ridere questo orgoglio del Lambrusco. Beh. Ci sta. Se non avete bevuto di meglio, ci sta. No, io non sono molto, essendo bolognese, non sono, vabbè, sono un po' di parte rispetto. Beh, Gordereccio sicuramente, voglio dire. Quando mi dai una bottiglia di Arneis te la scolo in un attimo. Ecco. Altro, ma questo è l'essere bolognese, Gordereccio. Okay, grande. E da un po' di tempo hai cominciato. Ah, sì, ho cominciato a occuparmi di tappeti, ho sempre amato e studiato il design e ho voluto ripristinare un po' le mie origini qui a Bologna. Bellissimo. E coniugare l'esperienza che mi sono fatta qui con quello che ho conosciuto invece da sempre, sin da bambina in Sardegna, cioè la tessitura tradizionale. Sono figlia di una tessitrice. Wow. E quindi disegno e produco tappeti in che Sardegna. Sono delle opere d'arte i suoi tappeti, praticamente. Se li vedete sul sito, no? Si possono vedere, sì, tutti i tuoi lavori sul sito che poi lasceremo nel blog www.caterinafrongia.com. Perfetto. Sì. Hai cominciato a disegnare? È stata un po' una scommessa, ho voluto provare a coniugare un gusto contemporaneo con un'arte veramente antica, tradizionale, antica, fatta a mano, eccetera. Che si dice apibiones, giusto? Sì, la tecnica. Ho studiato. La tecnica utilizzata è quella apibiones, che tradotto significa acini d'uva, sono i nodini tondi, insomma, che caratterizzano quei tappeti. E la cosa sembra riuscita, insomma. A me piace tanto perché mi piace il risvolto antropologico della questione, non certo, solo quello del disegno, e quindi il fatto che siano fatti a mano dalle tessitrici esperte, insomma, tutti rigorosamente prodotti in Sardegna. Assolutamente sì. E l'ispirazione per i tuoi tappeti ce l'hai, cioè la crei, la narrazione visiva la crei, diciamo, su commissione, su una tua ispirazione che ti nasce così? Sì, entrambe le cose. Diciamo che ho voluto conservare una caratteristica che è sempre appartenuta ai tappeti di tutto il mondo, poi non solo di quelli sardi, che è quella del raccontare una storia attraverso la tessitura. Certo. E tutti i miei tappeti sono delle storie raccontate, si leggono dal basso verso l'alto, spesso sono proprio scritti, quindi si possono leggere come si legge un testo, quindi vengono tessute raffigurate delle lettere dell'alfabeto, altre volte uso linguaggi più nascosti, simboli, altri linguaggi come il Braille, che amo molto perché esteticamente molto potente. Certo. E poi si può raccontare qualcosa senza svelarla subito, insomma, anche certo, tenendo un po' di mistero nel contenuto, certo, certo, certo, del racconto. Credo che anche perché questi nodini, questi pibiones vanno proprio toccati, quindi nel senso che anche il Braille, che c'è questa dimensione del... Certo, il Braille è in rilievo, si legge con la mano. Esatto, quindi... esatto, bello, molto bello. Dimensioni, vai dal piccolo al grande. Certo. Hai fatto anche qualche arazzo forse? Sì, ho fatto anche qualche arazzo. Ho iniziato con i tappeti e ho scoperto man mano che quasi tutti i miei committenti alla fine rinunciavano a usarli come tappeti e li appendevano alle pareti, quindi a quel certo punto ho detto perché non fare un arazzo a quel... Ah certo, è vero, e quindi sì, hanno lo stesso risultato, sono certo tessuti nella stessa maniera, sono belli anche appesi. Sì, ci credo, è vero. Tu intanto sei andata a vederteli qualche tappeto? No, non ci sono andato, no, stavo facendo tutt'altro. E, no, infatti interessante sta cosa, un designer che fa un oggetto di design che dovrebbe essere fruito in un certo modo, se viene appeso e guardato come un'opera d'arte, come reagisce? Come reagisce? Con una certa gioia, immagino. Sì, sì, la cosa mi lusinga tantissimo, ovviamente, anche se per me rimangono dei tappeti e vanno usati per terra assolutamente, però diciamo che in questa maniera è come se assumessero un valore certo ulteriore, e questa cosa è tutta merito di chi li sceglie, di chi ne fa quell'uso, insomma, non... Certo. Mi fa molto piacere. Bello. Il bello prossimo divano che facciamo lo appendiamo anche noi. Esatto, esatto, esatto. Infatti veniamo a te invece. Sì. Tu raccontaci. No, prima di lui andrei da Marco Roma. Okay, che ci introduce. Voi dovete sapere che abbiamo un radioascoltatore che tutti i giorni ci manda una canzone. Per cui, che bello. Vedi? E adesso cerchiamo di ascoltare quella di oggi. Buongiorno, fino a quando tu respirerai la mia aria, fino a quando sentirai le mie labbra cadere sul tuo seno magico, questo non lo so, io non lo so, da Marco Roma. Buongiorno. Il tuo seno magico. Allora, avevamo ipotizzato lunedì scorso che gli fosse successo qualcosa, perché non aveva scritto per 3 giorni. Infatti. Si è innamorato, ha trovato la esatto. La primavera è arrivata anche per Marco Roma. Grande. Allora. Questo significa che sta da Dio. Bene. Sì, infatti. Ci eravamo preoccupati un minimo. No, invece siamo belli. Ok. Senti Francesco, raccontaci. Eccoci. Allora, io vengo da una terra più nebbiosa, che tu ben conosci in quanto siamo entrambi di Vicenza. Grande da Vicenza. Lì il mio percorso è stato andare a Milano a studiare Politecnico e poi dal Politecnico nel 2011-12, quando la città stava iniziando a prendere un po' la crisi del... il post crisi americano... Qui c'erano gli strascichi e in America si stava riprendendo, perché certo, comunque è durata 4-5 anni. Stavano iniziando ad assumere, abbiamo detto, parlo al plurale perché è un percorso che ho fatto insieme a mia moglie. E abbiamo detto, salutiamo. Andiamo in America e andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte dell'oceano. È sempre stato un po' un nostro pallino, non abbiamo fatto l'Erasmus, quindi abbiamo detto, vabbè, andiamo direttamente. Da lì abbiamo fatto il classico percorso di tirocinio di un mese, dovevamo stare... massimo 3-6 mesi, la classica cosa, certo, da faccio l'esperienza, torno, stiamo un mese, 2 mesi, 6 mesi, ci fanno un visto perché appunto stava riprendendo l'economia, quindi c'era pochissima gente assunta e stavano cercando di riassumere tutti, perché momento perfetto perché il lavoro stava tornando, avevamo bisogno di personale, quindi riusciamo a cavalcare l'onda, ci infiliamo nel mercato e da lì poi siamo stati 7 anni in America I classici sei mesi non pagati. Poi abbiamo fatto 7 anni lì a New York. È stato meraviglioso perché esperienza appagante, ti fa crescere, ti allarga le spalle. E dopo 7 anni però di New York sei saturo. Abbiamo lavorato in 2 diversi studi, poi abbiamo aperto il nostro studio di architettura perché noi nasciamo come architetti. Certo. E poi c'è stato un po' un fattore determinante che ci ha fatto rispostare in Italia. Al di là, vabbè, eravamo comunque un po' stufi perché è una città che proprio ti logora. Certo. Avevamo dei clienti molto facoltosi, classici della Upper East Side, Upper West Side, che iniziavano a chiederci qualcosa di particolare. Volevano designer giovani italiani che facessero dei pezzi d'arredo per essere innanzitutto unici, perché poi il sistema americano ti porta ad avere le case tutte uguali una all'altra. In questo momento storico l'americano si sta molto cambiando la propria mentalità, perché prima bastava prendere un prodotto italiano e diceva va bene, ho il prodotto italiano, sono felice, adesso vuole il prodotto unico. Quindi ci facevano disegnare, si è specializzato ancora di più. Assolutamente sì, devono far capire che hanno viaggiato, che comunque non vengono in Italia solo per prendere qualche pezzo, ma vogliono il pezzo. E quindi ci facevano disegnare dei prodotti d'arredo, complementi che potevano essere tavoli, tavolini, console. Che anche questo ha molto a che vedere con l'opera d'arte, no? Con l'unicità era importantissimo. Il caso diciamo determinante è stato quando questa cliente nostra molto facoltosa ha detto: sono andata a Venezia, non sono stata da Venire, non sono stata da nessuno, ho comprato un vaso di vetro in un negozietto che mi piaceva, bellissimo il vaso, l'ho messo nel trolley, sono tornata a New York, ho bisogno di una console fatta da italiani con materiali italiani. Ma dai. E lì abbiamo detto: ma ragazzi, ma forse siamo dalla parte sbagliata dell'oceano, cioè dobbiamo tornare, perché qui abbiamo gli artigiani, il saper fare da centinaia di anni, e ovviamente tenere dei mercati aperti per commercializzare con l'America. Quindi siamo tornati, abbiamo avviato questa piccola azienda, chiamiamola così, di oggettistica, quindi utilizziamo tutti gli artigiani delle prealpi, quindi comunque del Veneto, che possono essere ceramisti, chi lavora al marmo, chi lavora al legno, tutti i materiali organici. Da lì è nata questa piccola realtà che devo dire che sta prendendo piede in maniera molto soddisfacente, che è lato per lato, e anche proprio qua, se vogliamo vedere le vostre creazioni, è www.latoperlato.com, scritto lato x lato, infatti. E da lì poi abbiamo aperto altri due canali, che è lato per lato architettura, perché comunque noi rimaniamo architetti e i nostri progetti li portiamo avanti, e studio lato per lato, perché lato per lato ci ha permesso di farci vedere dalla stampa, dalla carta stampata, da clienti, da aziende, e quindi hanno iniziato a chiamarci per disegnare prodotti anche per loro. Quindi abbiamo queste tre realtà che ci stanno meravigliose, che ci stanno chiamando. Tre realtà, perché dici allora architetti, commissione pezzo unico e la nostra... diciamo lato per lato, studio lato per lato e lato per lato architettura, che rientrano nella stessa pancia. Certo, il lato per lato cosa troviamo, per esempio? Beh, in lato per lato abbiamo le vostre, diciamo, le vostre collezioni, tra virgolette. Le nostre collezioni, no? Che vendiamo direttamente ai negozi, abbiamo il nostro commerciale. Non commissionate, esatto. Esattamente. Okay. E oggettistica, perché in quel momento la sentivamo più nostra, e poi nascere da zero con l'oggettistica vuol dire che hai degli oggetti molto più piccoli, più gestibili, il packaging, la spedizione, puoi appoggiare a piattaforme di e-commerce esterne, è molto molto più snella. Poi per altre aziende facciamo letti, divani, tavoli, complementi, insomma facciamo quello su commissione, giusto? Quello su commissione. Sempre valorizzando, e qui sì, il divano, effettivamente il divano appeso diventa un pochino più complicato. Quello diventa un filo più complicato, sì. Però valorizzando l'italianità. Anche la massima forma di italianità. Quindi una cosa che vi accomuna, mi sentirei dire, sì, è un po' di sì. Esattamente questa, questa passione, questo rispetto, questo coltivare di sì. Qualcosa di originale e qualcosa che è le nostre origini, ma no? Certo. Senza, magari sviluppando più che un prodotto diversificato nella sua materia, un prodotto diversificato nella sua comunicazione. Quindi finalmente due italiani che fanno in Italia. Fanno gli italiani. Fanno in Italia, per l'Italia e per il resto del mondo, ma da qua, no? Sì. Io trovo, Stefano, che sia una cosa veramente molto carina. Mm-hmm. No, c'è un po' una riscoperta anche, giustamente, perché... Anche perché ne sanno parlare, scusami se ti ho interrotto, sì, però gli statunitensi o sanno parlare dell'italiano meglio degli italiani a volte, certo, no? Sì, assolutamente. E questa è una cosa agghiacciante, no? Beh, una volta ci è capitato che eravamo in un negozio, ci dicono dall'accento cosa siete, siete italiani, diciamo siamo gli italiani di Bologna, di Vicenza, e cosa ci fate qua? E lì inizia a capire che questi vedono l'Italia che è un centesimo della, certo, dimensione dell'America, non un centesimo, però siamo minuscoli e ci considerano delle divinità, certo, su tutto, sull'arte, sulla cultura, sulla storia, sulla poesia che abita, poesia, sul teatro, tutto nostro, su tutto. Sì, sì, sì, sì. Poi io trovo che sia rinata questa necessità di guardare gli oggetti ben fatti, brava, certo, fatti, brava, artigianalmente, che, brava, sia legno, che sia ferro, che, certo, sia tessuto, insomma qualunque cosa, si era quasi un po' persa questo aspetto, si era perso nel design, e invece adesso trovo che negli ultimi anni ci sia una grande attenzione all'oggetto fatto, sì, pensato, certo, e fatto a mano, fatto bene. Certo. Anche perché l'avvento della plastica ha portato quello che stai dicendo, anni 70, 80, esatto, 90, produzione di massa, oggetto usa e getta, sì, però poi alla fine della fiera, sì, lo prendi, lo butti e la qualità ne perde, certo, totalmente. Sì, sì, sì, sì. E infatti l'oggetto ben fatto richiama per forza di cose anche degli anni di tradizione, no? Certo. Cioè, sì, gli oggetti ben fatti non possono essere ben fatti oggi, ma portano con loro, diciamo, un rispetto del tempo, sì, del tempo che racconta di nostre radici passate, sì, passate, passate. Senti, stai mettendo un pezzo, senti il rumore del mare? Sì, è Sardegna questa è Sardegna. Oggi è la giornata nazionale del mare. Sicilia. Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto. Portami lontano a naufragare. avete continuato a parlare per tutta la canzone. Cose interessantissime che non verranno mai più ripetute. E che nessuno saprà mai. Il segreto della vita. Dobbiamo salutare anche Gifo da Vicenza che mi ha mandato 50 messaggi tutti uguali. Ciao Gifo, ciao Gifo. Ciao. Ok. Oscar Moroni non ci ha salutato. Ah sì, è sempre lui, scusami. Oggi l'ho chiamato con il suo vecchio. A Gifo? Sì, perché Gifo poi Gifo è Oscar Moroni. Tu non lo sapevi. No, infatti dicevo ciao Gifo, pensavo che fosse un nuovo ascoltatore. No, è sempre lui. È sempre il nostro unico ascoltatore. Allora, Oscar sarà contentissimo che siamo pari veneti in questo studio. Ah sì, oggi. Ah, sì, due certo. Veneti e due. E sì. Due oriundi. Esatto. Ho una domanda per Francesco, ma lato per lato siete solo voi due come designer oppure avete anche designer esterni? Allora, lato per lato siamo noi due. Ok. Avevamo inizialmente detto apriamo questa piccola azienda per in qualche modo creare anche nuove collaborazioni con altri. Però abbiamo deciso per il momento di tenerlo un po' intimo perché è diventata un po' una caratteristica. Una sala di sperimentazione. Perché tutto quello che vogliamo in qualche modo sperimentare a livello di oggettistica, che sono pezzi molto italiani, molto, molto legati alla tradizione italiana, ma anche come estetica. Cioè raccontaci un po' di oggetti. Ma tutto nasce dal prendere spunto dall'architettura. Perché essendo architetti per noi è molto importante, ci piace molto giocare col fuoriscala. Quindi ciò che è grande nell'architettura lo rendi piccolo, certo. E viceversa. Quindi c'è un po' questo gioco. Siamo usciti adesso con una nuova serie di vasi per piante grasse che si chiama Scenografie, perché la pianta grassa di solito la metti in un vasetto e sta là, poveretta, è un po' sfigatina, certo. E quindi abbiamo cercato di darle un po' una scena dietro, una scena teatrale ma fatta con arcate, scalinate, quindi una cosa molto architettonica. Siamo molto attenti a portare il bello che noi vediamo intorno e che in qualche modo siamo assuefatti, che non ci facciamo più caso, e noi ci facciamo caso perché abbiamo fatto l'esperienza in America dove quel bello non esisteva più. Certo. Quindi ci mancava la piazza, il palazzo, il gioco di ombre che vedi su un palazzo perché hai le colonne che ti creano, certo, il portico in ombra col raggio di luce, non esisteva in America. Tornando in Italia ogni volta, quelle due o tre volte all'anno, rimanevamo impietriti, e quindi abbiamo detto questo deve essere messo in un qualcosa di tangibile, che non sia solo un palazzo ma anche che sia di portatile, un oggetto che ti porti a casa, quindi immediato lo compri, te lo porti a casa, è un piccolo oggetto, un piccolo pezzo di architettura, quindi diventa un po' una nostra sperimentazione quella. E quindi i vostri oggetti raccontano un po' il vostro sguardo sulla città. Assolutamente sì. Cioè mettendo in fila, paradossalmente mettendo in fila o utopicamente mettendo in fila tutti dei vostri oggetti, potremmo ricostruire una passeggiata che voi avete fatto per la città o le città, no? Assolutamente, c'è il porticato bolognese, abbiamo questa serie, la prima serie di vasi che è uscita che si chiama Cinecittà, anche lì il nome, si chiamano Massimo Vittorio, Sofia. Grazie. È tutto nell'italianità e sono questi vasi con questi archi molto molto importanti come proporzioni, si vede molto nel vaso l'arco e l'arcata anche perché è dipinta d'oro, ma d'oro nel senso che è una pittura con il pigmento oro 24 carati, quindi certo, molto impreziosita. E nello shooting avevamo fatto questi prodotti che alla fine erano di due colori, erano 15 pezzi messi uno vicino all'altro in dei piedistali, sembrava una piccola città, quindi c'è un richiamo allo sguardo che può essere, che ne so, la città vista sul mare che vedi dalla barchetta e ti ricorda un po' questo mondo quasi appunto immaginario, però certo, molto legato all'architettura. Bello. Ci piace, forse è un po' una fissa per carità, però vabbè, è un po' il nostro filone. Sì. È un po' un filone. La vostra deformazione professionale che vi portate dietro. Voi avete smesso di fare gli architetti per fare designer di architettura. Esattamente. E in realtà non avete smesso di fare. In realtà non abbiamo smesso. Esatto. Giochiamo con le scale all'opposto, certo, poi, perché le cose piccole magari le mettiamo nelle case cercando di giocare con la scala. Però insomma sì. E invece la progettazione di architettura, che cosa fate? Come proprio come architetti? Beh, allora facciamo tanto interni. Tanto interni. Quindi, okay, sai, è un mondo strettamente legato a quello che facciamo nel design. Certo. Perché al di là del fatto che il pezzo lo crei anche per un singolo, per un arredamento, per una ristrutturazione, o comunque hai i tuoi pezzi che poi puoi mettere nelle case. Certo. C'è uno scambio, perché alla fine arredare, cioè ristrutturare una casa, il 50% poi lo fa l'arredamento. Quindi sono due mondi, sì, che si intersecano, ma devono coesistere, cioè non sono cose divise. Tanti architetti, miei colleghi, fanno il progetto architettura e poi dicono: boh, arriverà qualcuno ad arredarla, intanto io ti faccio i muri belli, bianchi, con la volta. Sbagliano, perché va visto già in chiave futura, con l'arredamento. Certo, deve sposare, certo, col tappeto. Cioè, il tappeto, appunto, è importantissimo. Quando prima, certo, fuori onda ti dicevo che il tappeto è una cosa meravigliosa, è una tela bianca. Esatto. E tu puoi avere sto splendido tappeto di 4 metri per 4 e ti fa la casa. Anche, sì, perché vai a coprire magari un pavimento di legno bellissimo con una cosa altrettanto bella. E sì, quindi, sì, sì, hai questo gioco. E poi non tutti i tappeti vanno in tutte le case, quindi anche questo, case, no? Quindi diciamo che ci si sceglie a vicenda tra arredamento e muri. E pubblicità. Aumentano i prezzi? Vai dal contadino. Sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. Sì, senti sloghi però. Siamo qua Stefano. Siamo qua. Chi era questo che ha presentato Coxo Spaziale? Era Cesare Pietro Iusti, finto. Eccolo. Perché in realtà era Norese che faceva finta di essere Cesare Pietro Iusti. Infatti l'avevo un po' riconosciuto. Ah, ecco, mi dice Amerigo che Amerigo adesso stiamo per telefono, no, lo stiamo per chiamare in questo momento, adesso ci stiamo provando, che vuole chiedere qualcosa a Francesco. Vedi, adesso aspetta che vengo di qua. Lo chiamiamo se fa una domanda a Caterina, però. Ti sento? Parla? Pronto? Dove sei? Aspetta che abbasso la radio. Sì, si sente, si sente. Forse è meglio, ti sentiamo. Aspetta che devo capire. Ecco. Amerigo. Buonasera a tutti. Sei a... No. Dove sei? Allora, in questo momento siamo a Bergen, in Norvegia. Ciao Stefano. Siamo con Giorgia Tronconi e Amerigo Mariotti di Adiacenfe, che abbiamo avuto ospiti in studio many times. Cosa fate a Bergen? Vero. Ormai sono un abitué. Infatti. Come state voi lì? Noi stiamo freschi. Voi come state? C'è la primavera? Sì, qua ci sono già 20 gradi. Preparatevi a scendere dall'aereo in maglietta. Sì, sono 28 dentro. Finalmente, perché io qui sono malato da una settimana. Nevica tutte le mattine. No, ma infatti vi vediamo col cappotto e non vi invidiamo per niente. È verissimo, non mi invidio neanche io. Raccontaci, raccontateci velocissimi che cosa state combinando e che cosa avete combinato. Allora, cosa stiamo combinando? Stiamo lavorando al primo step di Swap. Swap è un progetto appunto di scambio tra Bologna e Bergen, tra lo spazio di adiacenze e lo spazio Conseven. Conseven è uno spazio che si occupa soprattutto di ceramica, è un enorme laboratorio finanziato come tante cose qui dal comune di Bergen. E, come Adiacenfe, che è finanziato dal comune di Bologna, vero? Come? Dico come Adiacenfe, che è finanziato dal comune di Bologna totalmente. Sì, sì. No? no, dai. Non mi far dire cose che no, infatti, visto che sei lontano, ti posso ti posso infatti per un'altra settimana sì, posso essere no, ma guarda, in questi giorni qui abbiamo potuto veramente capire la differenza tra l'Italia e altri posti. sì però non è, però ti assicuro che non è tutto oro quello che lucida, certo, no, ma lo sappiamo. Delle criticità, ed è giusto poi dirlo, magari quando, se avrai voglia, ci inviterai tutti in trasmissione, perché c'è tanto da dire. Guarda, noi abbiamo voluto portare con noi dagli Antonello Ghezzi, che credo tu conoscerai, un duo artistico di base a Bologna, con cui insomma abbiamo fatto questa residenza di 3 settimane. Hanno fatto un progetto bellissimo, cioè dalle foto che ho visto su Instagram il progetto mi sembrava bellissimo, questo degli bellissimo. E devo dire delle strette di mano. Ragazzi, ora non so come, perché loro sono ripartiti ieri. Mm-hmm. Loro sono ripartiti ieri perché sono venuti qualche giorno prima di me e Giorgia. Okay. Quindi adesso noi porteremo avanti la mostra, quindi insomma continueremo a lavorare anche per il prossimo anno, perché a quanto pare abbiamo lavorato talmente bene che pare che visseremo il progetto. Però no, niente, stavo dicendo brevemente, gli Antonello Ghezzi hanno lavorato benissimo, hanno lavorato ad un progetto interattivo, partecipativo, quindi attraverso il materiale, appunto quello della ceramica, abbiamo evidenziato lo spazio che c'è tra una stretta di mano e tra una mano e l'altra mentre si stringono. Molto carino. Abbiamo raccolto le varie strette di mano prese per strada e abbiamo notato anche che l'interazione fisica qui è davvero ai minimi termini, perché chiaramente quando dicono che a nord sono più freddi è vero, però sono successe cose anche molto molto molto belle, molto interessanti, molto inaspettate, questo sì, va detto. Quindi raccolte queste strette di mano, i ragazzi attraverso il laboratorio di ceramica ci hanno lavorato e poi le abbiamo allestite, come potete vedere anche dai vari social, e abbiamo realizzato la mostra. Più in generale, ecco, mi piacerebbe sottolineare quello che è il progetto che gli Antonello Ghezzi poi hanno saputo interpretare molto bene, che appunto è un progetto di residenza. Di residenza in cui gli artisti vengono qui a Bergen e interagiscono con altri artisti, interagiscono con il territorio, interagiscono in questo caso con il laboratorio di ceramica, imparano, studiano, lavorano. Non è solo un modo per far fare una mostra in più agli artisti che portiamo qui, ma è un modo appunto per mettere alla prova gli artisti, e devo dire che gli Antonello Ghezzi si sono applicati tantissimo e ci siamo divertiti, siamo cresciuti tutti, perché lavorare con un altro mondo, perché poi è quello che è qui, ci ha fatto crescere un po' tutti. Fantastico. Ci sarà il secondo tempo, mm-hmm. che l'arrivo dell'artista di Bergen, che verrà poi ad adiacenze e lavorerà all'interno della Casa della Cultura Italo Calvino, e la restituzione sarà una mostra a novembre all'interno degli spazi di adiacenze. Fantastico. Giorgio, volevi dire qualcosa che mi stai facendo cenni? I classici cenni che non si vedono in radio. Come? I classici cenni che non si vedono in radio e che in teoria non esatto. Si dovrebbero svelare. Esatto. No, niente, io aggiungo solo qualche cosina istituzionale, diciamo, che dobbiamo ringraziare sicuramente Manuel Portioli, che è l'altro curatore del progetto insieme a noi, che è un artista e curatore basato qui a Bergen. Grazie a lui, diciamo, abbiamo potuto anche realizzare questo piccolo sogno. E poi insomma il supporto fondamentale è stato anche dell'Istituto Italiano di Cultura di Oslo, del Comune di Bergen, ed è un progetto che ha coinvolto insomma anche il Comune di Bologna col patrocinio, e tutti questi spazi, diciamo, è l'idea di metterli in rete, quindi adiacenze con Seven, questo laboratorio di ceramica, Habitat, che è lo spazio dove abbiamo realizzato la mostra, e la Casa della Cultura Italo Calvino, che sarà più, diciamo, protagonista nella seconda parte del progetto. E quindi l'idea, diciamo, alla base anche di questa prima edizione è di proiettarci verso una creazione proprio di una rete anche a livello internazionale di collaborazioni. Questo, diciamo, ci piacerebbe realizzarlo in futuro. Perfetto. No, ci sarebbe veramente tanto da dire, perché due settimane qui insieme agli Antonello Ghezzi ci hanno fatto scoprire un mondo diverso. Che ci racconterai quando venite ospiti? Assolutamente, guarda. Perché qui dobbiamo salutarvi e andare avanti con i nostri ospiti. Sì. Io volevo un attimo solo. Volevi fare una domanda a Francesco. Al designer a Francesco, certo, perché prima ascoltavo, no? Gli volevo chiedere, ma voi avete mai lavorato con artisti? Non abbiamo mai lavorato con artisti, no. Ed è una cosa interessante e intelligente comunque da fare, perché la ceramica poi si presta tanto alla personalizzazione. Quindi l'evento particolare, dare in mano una, anche lì la ceramica è una tela bianca, quindi la dai in mano a un artista, appunto, e te la personalizza. Quello è un input che avevamo preso l'anno scorso, poi sai, rallentamenti, Covid e tutto, l'abbiamo un attimo messo in stand by, però assolutamente non sarebbe da escludere. Occhio che quando Amerigo comincia a frullargli qualcosa in testa, dopo non lo ferma più nessuno. No, ma guarda, magari poi ti chiamo in privato e ne parliamo, però quando tu hai detto tappeto come tela bianca, chiaramente mi ha fatto venire voglia di collaborare, e quindi chissà. Amerigo, facciamola anche a Caterina. Facciamola anche a Caterina questa domanda, se Caterina ha mai collaborato con degli artisti. Caterina, hai mai collaborato con artisti? Amerigo, no, mai prima d'ora. Spero che succeda questo evento, perché trovo che sia, che lo scambio delle idee sia alla base di qualunque lavoro, quindi. No, ma è veramente bello. Cioè, quando succede, hai ragione tu, quando succede avvengono cose magiche. Anche in passato lo è stato, e davvero sì. Sì, abbiamo parlato. Potrebbe essere, dai, Stefano potrebbe essere il primo artista che collabora con entrambi voi, quindi. Eccoci. Va bene. Che dici tu? Sì, venduto, dai. Bene, andata. Perfetto. Grazie Giosa, no, grazie Amerigo. Vi lascio continuare, però ci tenevo a fare questa domanda, perché qualcosa di bello si può sempre fare. Infatti, dai. Uniamo queste nicchie. Dai, annicchiamoci. Ciao, a presto. Un abbraccio, ragazzi. Ciao. Grazie, ciao. Stefano. Ciao. Sì, perché abbiamo parlato del saper fare, però trascurando le idee, no? Fino adesso in questa trasmissione, le idee sono importantissime. Certo, o anche il saper fare insieme. Abbiamo parlato molto, certo, di sguardi sulla città, di sguardi sul passato, sulle tradizioni, sulle radici, e secondo me le idee sono quelle che in qualche modo unificano, no? Tutti questi mondi, certo, tutti questi angoli della città o delle radici, no? Ti immagino solo nuda per le montagne sude, dopo una gita assurda fa sulla tua nuca, e i miei ricci ti bagnano il culo, ti bagno la tuta, mi bagnerò tutto, ti sto col seno come una verruca, come un naso mi suga, mi riempio la saliva di aquile e corvi dal corpo ti volano via, qui sbattono le ali e non batte il ciglio ma battemi tu. Lampadina nel buio, non guardare il futuro. bella menzione. L'ho segato di brutto perché altrimenti non ci stiamo non ci stiamo come, come tempistica. Ci sono dunque stasera, intanto io e te lo sappiamo, andiamo a Fendi Fonda Pfeiffer, porno cliché osè, ovvero oggi alle 21 negli spazi di Alchemilla in via Santo Stefano 43 Bologna viene presentato il libro Porno cliché osè, edizioni Rosner di Paris, di Peter Fendi, Peter Fonda e Michel Pfeiffer. Sì, il volume si avvale del contributo fotografico di diversi autori, tra cui Charles Gateway e Jean-Paul Gold, e delle illustrazioni della serie Der Walter Pfeiffer realizzate dall'artista Andrea Renzini, che, che salutiamo, e questa ad Alchemilla in via Santo Stefano 43 stasera dalle 9, per cui appena finito Coxo Spaziale si scatta da quelle parti. Dopo il 12 aprile invece presso The Room nella aspetta perché invece c'ho, volevi dire un'altra? Sì, c'ho quell'altra di Annalisa Cattani che salutiamo a Imola, che domattina, siccome è domattina bisogna dirla prima. Ah certo, certo. Appunto, martedì 15 aprile, quando un posto diventa un luogo, l'happening con cui l'artista Annalisa Cattani, in collaborazione con i musei di San Domenico, le scuole e il comune di Imola, riattiva... Ma il 15 non è venerdì? No, è il 12, martedì 12 aprile. Ecco. Riattiva i luoghi della memoria. In questa occasione abbiamo poi gli allievi della Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro, e il progetto diventa un'opera totale in cui arti visive e performance formative e musica si fondono. Stiamo naturalmente parlando di del 12 aprile 1945 e appunto tutto questo questa organizzazione parla del momento di resistenza. In questo caso abbiamo Eric Satie con 16 Vexation, non so, 16 non saprei come si dice in francese. 16 molto, molto bene. Ed è una performance per onorare le vittime del Pozzo Becca. Abbiamo Lorenzo Gasparo alla chitarra e Paolo Pascuccio al flauto traverso. Questa alle 10:30 in via Vittorio Veneto, al monumento alle vittime di Pozzo Becca a Imola, a Imola, appunto. Adesso tocca a te. Il 12 aprile invece presso The Room, nella affascinante cornice storica di Palazzo Aldrovanti in Montanari, in via Galliera numero 8, avrà luogo il finistage della mostra Il cerchio spezzato a cura di Eleonora Frattarolo. A chiusura dell'esposizione, che ha visto in mostra le opere di 7 artisti, Rufoism, Paolo Migliazza, Edoardo Sessa, Angelo Maisto, Luciano Leonotti, Andrea Valsecchi e Silvia Zanni, si terrà un incontro dal titolo Dialoghi in cerchio, dedicato alle problematiche ecologiche e alle loro ripercussioni dentro e fuori di noi. Direi che la possiamo troncare qua o continuo? La possiamo troncare qua, bisogna solo specificare che la partecipazione è a numero limitato e solo su prenotazione. Esatto. Per le prenotazioni è necessario scrivere a press@derum.it. Molto bene, e naturalmente da domani trovate tutto su www.coxospaziale.blogspot.com, incluso l'evento di stasera, che in quel caso diventerà di ieri. Comunque va bene così, andiamo avanti con... Ci sta. Con almeno gli ultimi due interventi con i nostri fantastici ospiti, perché qua il tempo vola quando ci si diverte a Coxo Spaziale. E devo dire che nei fuori onda abbiamo fatto un sacco di conversazioni veramente super interessanti. Dobbiamo fare un extra podcast apposito. Esatto, ci sarebbe da fare in tema caldo IKEA, quindi tema caldo è un temone questo. Cavoli, no, in effetti, perché c'è da dire che IKEA di buono ha portato il design alla portata di tutto, di tutti, ma di cattivo è che abbiamo tutti la stessa casa. E magari non vengono valorizzate, non viene compreso il costo che sta dietro a un oggetto, no? Se tanto per pochi soldi te lo puoi prendere a IKEA, perché andare a... Infatti una cosa che mi è venuta in mente, ve la butto là come domanda, la resistenza del tempo, cioè prendo una cosa a IKEA e mi dura, non so, una generazione, se dico tanto, cioè ti dura mezza. Molto meno. Cioè, una generazione dipende, perché poi, come sapete, c'è la roba IKEA di 30 anni fa è ancora lì, mentre la roba IKEA di 10 anni quanto fa si è già. Basta non smontarla, in realtà. Il tema è quello: è quando smonti un letto che non lo rimonti più. Ti tieni il materasso. Infatti, è vero. Quant'è la vita di una cosa IKEA, ipotizzando? Quanti anni secondo vive? Secondo me dipende da quando è stata costruita, perché una volta erano. da quanto si è litigato durava, mentre la si montava. Poi hanno capito che se durano troppo la gente non ci torna, e dunque che è un po' un dramma cioè non solo dell'IKEA, ma è un dramma della nostra totale della nostra, perché la domanda era il fatto di passare una cosa a un nipote, questo te lo regala il nonno, era di tuo nonno, certo, quanto si può fare i giochi no? Di legno dei nonni, e questi tappeti o questi, infatti, o questi oggetti architettonici vivranno oltre a voi, oltre ai vostri figli, oltre ai vostri nipoti. Questa Quello è un lascito bellissimo, certo, no? Sì. I tappeti stessi, io che penso più di erano sì. vecchi e più, cioè certo, più sono sì. vecchi e più sono. Certo, io a mia volta ho ereditato i tappeti di mia bisnonna, di mia nonna, e sono ancora perfetti. E, wow. e questo mi auguro per i miei, wow. essendo noi, della stessa fattura. Pensare a editare un Kallax. Pensa che bello. Sì, infatti, un bel Kallax. Un bel Kallax. Sì, sì. Tieni, nipote, ti regalo. Però devo dire che l'IKEA, forse in questi ultimi tempi, sta prendendo una piega migliore, diciamo. Sta facendo degli oggetti di valore, li sta affidando a designer bravi. Mm-hmm. Architetti e designer bravi, e forse penso sia migliorata la qualità, okay. di alcuni oggetti, specialmente quelli piccoli, ecco, mm-hmm. insomma. Volevo un po' difendere l'IKEA. Certo. No, ma è estremamente da difendere, anche a livello di illuminazione sta facendo degli oggetti molto certo. belli. È ovvio che cannibalizza il mercato, sì. perché uno cosa dice? Vabbè, devo spendere 2000 euro per una poltrona o vado a spendere 120 all'IKEA, che alla fine l'utilizzo, esatto. mi devo sedere, poi sedere si appoggia. In realtà il vero problema sono gli stipendi delle persone. Però i 2000 certo. euro per l'IKEA certo. vanno anche per tuo nipote. Non dimentichiamolo, scusami, 2000 euro per il designer di nicchia, certo. no? Certo. Cioè tu non lo stai comprando però per te stesso e basta. Però viviamo in un momento dove c'è il ora e subito. Che palle, cioè, sta cosa, si può dire in onda, che palle, sì, non è subito. Puoi dire, è cambiato. Viva il tempo, io direi. Sì, certo. Sì. Viva il tempo nel fare le cose lentamente, certo. che resistano nel tempo, che arrivino da un tempo lontano. Io difendo più di tutti questo. Certo è che l'IKEA poi dà magari delle occasioni anche dai giovani designer o anche a delle realtà di farsi vedere, no? Quindi è un po' una cosa. Ma in realtà dà l'occasione a giovani studenti di farsi una casa accogliente senza vivere esatto. quel materasso per terra. Cioè, c'è anche quella faccia della medaglia. Però con il comfort della casa accogliente non ti suderai mai quattro camicie per trovarti la casa certo. della vita, no? Quella zona esatto. un po' di. E va in un circolo un vizioso. Circolo senza fine. Eh sì, sicuramente. Sicuramente, ma è una tematica che sarebbe da parlarne per... sì, so, un mio amico artista ha costruito la cucina nella loro casa, lui e sua moglie, e non so quante liti ha provocato il fatto, no amore, ci penso io, la costruisco io, poi chissà quando è finita, c'è da dire anche questo, no? Sì, no, anche perché poi non tutti gli artisti sono bravi designer, anche come voi due sicuramente sapete, infatti sì. voglio dire, io vi capisco benissimo che per ora non volete lavorare con gli artisti, perché poi gli artisti sono veramente gentili. Gli artisti secondo me posso difendere i designer per una volta. Gli artisti secondo me sono un po' più narcisi dei designer, cioè ai designer secondo me gli piace collaborare insieme ad artigiani, ad altri esperti. L'artista un po' questa cosa di avere il suo nome sull'idea, no, agli artisti piace moltissimo lavorare con gli artigiani, ma che non si sappia che ha lavorato con gli artigiani. Esatto. Beh, ma sai, il designer ha davanti un'azienda che dice questo è il budget, questa certo. è la linea rossa che devi seguire, sì, no, forse. L'artista è un po' più estroso, cioè certo. dice questo è il mio, io devo tirare fuori il meglio di me, no, punto. Anche perché l'artista non può fare il designer, perché nel momento in cui fa il designer diventa un designer. Sì. Per cui non può tenere conto del cortocircuito incredibile. Esatto, sì, esatto. Cioè, la cosa che invidio all'artista è che lavora e costruisce per se stesso, e invece il designer deve sempre tener conto certo, dell'altro, sì. deve pensare all'altro. Ed è per questo che sono due nicchie così separate, di fatto, sì. perché sono proprio due concetti di costruzione diversa, cioè partiamo da sì. due presupposti che sono diversi. Sì. Sì. Sai cosa sarebbe sì. molto figo fare, Stefano? Invitare varie persone senza dire chi è chi. Tipo chiamiamo un designer, un artista, uno scienziato, un artigiano. facciamo una bella intervista tutti quanti e metti vediamo... dei coltelli sul tavolo e ciao e chiudete la porta. Ma poi voglio dire, a livello culturale ci abbiamo tantissime cose in comune, su questo non c'è dubbio, ma è proprio il presupposto iniziale, cioè filosoficamente secondo me che partiamo da due identitari, da due, no? Da due, cioè come un tuffatore dagli scogli e l'altro in piscina, cioè sono proprio due due tuffatori diversi, no? Sì. Comunque l'importante è che secondo me nessuno si faccia mangiare mangiare dal meccanismo del mercato, e metto una banalità messa così, però in cui credo molto, però in realtà è vero per entrambi, infatti quando l'artista si fa mangiare dal mercato è un disastro, e lo stesso vale per i designer, cioè voglio dire non puoi solo accontentare chi ti compra. Ah certo. Perché altrimenti non si evolve più niente, no? Ci fermiamo. Sì. Come un po' sta succedendo con la musica e con un sacco di altre arti, anche tra virgolette minori, no? Sì, cioè, sì, è vero. Se tu vuoi fare solo soldi col cinema, fai un blockbuster che lo puoi veramente costruire a tavolino, perché sai già quali sono gli elementi che funzionano, no? E dunque lo fai, e poi anche tutti se poi... lo vanno a vedere, tutti sono contenti, però alla fine non stai evolvendo il cinema. E poi il mercato ti molla perché dice fai sempre le stesse cose. Esatto. Quindi No, ma infatti poi alla fine è difficile anche fare questo, infatti. Cioè non puoi, da cantante non puoi fare sempre la stessa canzone, perché poi dopo un po' la gente si scoccia. Detto questo, il nostro tempo è comunque, malgrado abbiamo già fatto le 8, il nostro tempo è davvero finito, e dunque vi dobbiamo ringraziare e lasciare. Grazie a voi, grazie mille per questa bellissima chiacchierata insieme, grazie a voi, e rifaremo prima o poi, dai. Assolutamente. Facciamo la seconda puntata. Esattamente. Vogliamo un confronto con gli artisti. Esatto. Grazie a Caterina Frongia, grazie a Francesco Breganze di Lato per Lato. E salutiamo Virginia, che è la co-partner in Time. Io ero Stefano W. Pasquini e tu sei Mia Daschio Suppiei. E questa era Coxo Spaziale. Noi ci risentiamo fra due settimane, perché facciamo la pausa Pasquini. mi sembra giusto. Grande. Dopodiché, come al solito, vi salutiamo con le parole del nostro direttore, che dice così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Noi abbiamo sforato perché non abbiamo visto le ragazze di Indecoradio, ma se arrivano dopo ci sarà Indecoradio. When I said goodbye, I knew that I lost her. Now that I miss her, I wish I could kiss her and tell her, come on girl. You know that I